Buongiorno, ecco, buona giornata, buon lunedì 11 maggio cari ascoltatori di Radio 24 e andiamo a vedere un pochino come la stampa quotidiana organizza oggi nelle prime pagine gli argomenti di maggior rilievo. Diciamo che il tema dominante nella maggior parte delle testate è sicuramente quello dell'immigrazione. Abbiamo aperture come quella della Stampa, il quotidiano torinese diretto da Mario Calabresi. L'Italia è già multietnica, questo è il titolo di apertura della Stampa, con un catenaccio immigrati, la CEI replica Berlusconi, Maroni avanti con la fermezza e un sommario, la Lega provoca il Premier, ormai ti sei pontidizzato, respinti altri barconi di clandestini provenienti dalla Libia, con variazioni sul tema, ma è più o meno l'argomento è analogo, il titolo di apertura di Repubblica è Immigrati, Maroni, non ci fermiamo. E quindi in questo caso è più sull'aspetto che riguarda la decisione intrapresa dal Ministro dell'Interno di continuare sulla linea dura e con un criterio opposto e simmetrico, ma la scelta è la stessa fatta dal giornale, il quotidiano diretto da Mario Giordano. Il titolo di apertura è, virgolette, non ci fermeremo, via tutti i clandestini, con un sommario che poi riporta dichiarazioni di Bossi, il leader della Lega. Bossi, la nostra politica sull'immigrazione illegale sta facendo proseliti, intanto respinto un altro barcone, mentre il ministro Maroni assicura la linea della fermezza continuerà finché gli sbarchi non cesseranno. Vi sono altri quotidiani come il Messaggero, il quotidiano di Roma, diretto da Roberto Napoletano, che invece scelgono una linea più fattuale e aprono semplicemente con la notizia respinti altri 240 clandestini, dando magari più rilievo nel sommario a un altro aspetto di questo tema che ieri ha preso evidenza, e cioè la risposta della CEI al Premier Berlusconi. La CEI, due punti, Italia già multietnica, infatti è il sommario del Messaggero, che poi riporta la reazione di Berlusconi, Berlusconi, DDL Sicurezza e di tutta la maggioranza. E analogamente anche il Secolo XIX, il quotidiano di Genova, ha un titolo di apertura più di cronaca, respinti a centinaia, vescovi in campo, la CEI contro i rimpatri, l'Italia è già multietnica. Direi che tra i maggiori quotidiani quello che ha un criterio diverso per dedicare la sua apertura di oggi è proprio il Corriere della Sera, il Corriere della Sera diretto da Ferruccio De Bortoli, e decide di aprire approfondendo il tema di ciò che sta avvenendo in Pakistan. Un milione in fuga dai talebani, il titolo del Corriere della Sera, con un sommario che riporta battaglia nella valle di Swat, esodo verso i campi profughi, allarme umanitario. E il sommario riprende poi un articolo molto interessante che ci sarà a pagina 8 e 9, una doppia che il Corriere della Sera riserva nel suo sfoglio interno all'analisi di quanto sta avvenendo in Pakistan e in Afghanistan, in cui si riportano delle dichiarazioni del generale Petraeus, il comandante USA, il Pakistan rischia la distruzione, mentre il Corriere della Sera riserva al tema dell'immigrazione, della polemica sugli immigrati respinti, il suo taglio centrale, via altri barconi, no dei vescovi. Andiamo a vedere quali altri temi oltre a questo si affacciano sulle prime pagine dei quotidiani italiani. Direi che il Corriere della Sera ne propone due. Il primo è naturalmente quello del Papa e dell'Islam, che è ben presente tra tagli centrali e richiami in prima pagina anche negli altri quotidiani, e il Corriere della Sera vi dedica un editoriale, il classico editoriale con le due colonne di scesa a sinistra del Corriere della Sera, questa volta firmato da Angelo Panebianco, il Papa e l'Islam, la forza di una scelta, e il sommario, e il titolo è Un dialogo senza ambiguità. Vedremo se riusciremo a leggerne poi qualche riga. Altro tema nella prima del Corriere della Sera, diverso da quello che abbiamo visto fino a questo momento, un commento dell'iniziativa assunta dal Quirinale di riconciliazione tra la vedova Calabresi e la vedova Pinelli, con un commento di Pierluigi Battista dal titolo E la favola del doppio stato va in soffitta, a pagina 13. Prosegue il commento di Pierluigi Battista, che fa una lunga ricostruzione dei diversi filoni che per decenni, dalle stragi senza mandanti e senza esecutori accertate, che costellarono la storia della Repubblica, della Prima Repubblica, giunge poi a considerare un po' liquidato tutta questa tesi storiografica del doppio Stato, animata soprattutto dalla storiografia di sinistra, e però a pagina 13, dove c'è poi lo sfoglio in girata del commento di Pierluigi Battista, c'è un'intervista dell'ex presidente Oscar Luigi Scalfaro. La partita non è chiusa, ha sbagliato, perdonare tutti, che mostra di avere un'idea un pochino diversa da quella del terrorista del Corriere Repubblica. Ha come altri temi in prima pagina rispetto a quelli che abbiamo già visto un richiamo nel taglio centrale a due belle fotografie ci riconducono alla vicenda dell'Abruzzo colpito dal sisma. Le fotografie: dal dolore al sorriso, così ricomincia la vita dopo il terremoto. Richiamano poi un servizio fotografico di approfondimento di articoli che c'è all'interno del giornale, a pagina 25, La voglia di normalità, e il commento di Franco La Cecla. Se ancora in prima su Repubblica, vi richiamo quella che è l'apertura di R2, poi fascicolo interno alla fondazione del giornale, che si apre con un articolo di Federico Rampini dedicato alla Cina, la generazione Tiananmen che ha cambiato la Cina, e sono tre pagine, pagina 29, 30 e 31 di approfondimento su Repubblica sull'argomento. Ancora temi diversi sulla prima pagina di Repubblica, un'anticipazione dal prossimo libro di Sua Eminenza Dionigi Tettamanzi, perché dobbiamo dire grazie allo straniero che è tra noi, e per chi fosse interessato, poiché sicuramente poi non avremo tempo poi per riprenderlo, dico solo che questo nuovo libro del cardinale Luigi Tettamanzi, arcivescovo di Milano, si intitola Non c'è futuro senza solidarietà, la crisi economica e l'aiuto della Chiesa, edizioni San Paolo, ed è in libreria dal 15 maggio. Repubblica sulla prima pagina e ne propone una tesi di fondo, che è quella appunto dell'incontro con gli immigrati e della comprensione. Poi ancora, altri temi. Sia sulla prima taglio basso di Repubblica, che poi con più rilievo naturalmente sui quotidiani romani come sul Messaggero, le dichiarazioni del sindaco di Roma Alemanno, tra virgolette, le riprendo dal taglio basso di Repubblica: ripugnanti le leggi fasciste contro gli ebrei. Su Repubblica trovate su questo un servizio a pagina 14 di Carmelo Lopapa. Ancora una curiosità sul taglio basso di Repubblica: addio alle botteghe, colpa di crisi e internet. Nei prossimi 5 anni, scrive il quotidiano diretto da Ezio Mauro, spariranno 62.000 piccoli negozi, a rischio 150.000 posti, e la colpa è non solo della crisi, ma è di internet, cioè del fatto che rispetto alla piccola distribuzione molti consumatori oggi si orizzontano con scelte attraverso il computer. Sulla stampa invece vediamo un pochino di temi diversi. C'è un bellissimo commento di Avram Joshua, che secondo me è il migliore, almeno come mio giudizio personale oggi, dedicato alla visita del Papa nella Terra Santa, la mediazione di Benedetto. Vedremo se riusciremo a leggerne qualche riga più avanti, ma intanto ve lo richiamo. In prima pagina sulla stampa un tema diverso rispetto a quelli che abbiamo visto, o il richiamo di un'inchiesta che poi prosegue a pagina 6 sul quotidiano torinese, da Torino a Venezia, la paura nei fortini PD. È un'inchiesta di Marco Castelnuovo che fa il punto su ciò che ci si attende nel PD in vista delle prossime europee, soprattutto elezioni in molte amministrazioni provinciali, in molti comuni, in cui il PD parte, come si suol dire, molto alto, cioè con risultati molto positivi, e quindi è un'indagine su quanto è diffusa all'interno della geografia locale del PD la paura delle prossime elezioni e dei suoi risultati. La stampa è il giornale italiano che oggi dà più rilievo, con una fotona nel taglio centrale. Una verticale nella sua prima pagina, al resoconto dell'incontro con la stampa che estera, che il presidente americano Barack Obama ha avuto una cena a Washington. Trovate il servizio più o meno su tutti i maggiori quotidiani, ma la stampa è quello che lo richiama con maggior evidenza in prima, con un titolo: Biden è come il mio cane, che è una delle battute più divertenti fatte da Barack Obama a questa cena, ma ne ha fatte molte. Infatti la stampa richiama il suo servizio dicendo: show di Barack, da Hillary a Bush, Obama ne ha per tutti, in effetti è un vero fuoco d'artificio di battute dall'ex vicepresidente Cheney a Hillary Clinton, eccetera, eccetera. Non credo che avremo tempo di approfondire, ma è, devo dire, molto divertente. Tra gli altri temi ancora mi piace richiamare, perché non lo farò più avanti, due argomenti sollevati dal secolo XIX, il quotidiano di Genova, singolari dal mio punto di vista, nel senso che in prima pagina trovate il richiamo di una pagina intera del secolo XIX, pagina 7, ed è dedicata alla richiesta che il secolo XIX avanza di alzare ulteriormente le tasse su i pacchetti di sigarette, quei 2 miliardi all'anno che il fisco manda in fumo. E la seconda puntata di questa inchiesta è firmata da Marco Menduni, in cui si sostiene la necessità di alzare ulteriormente prelievo fiscale e accisa, che vi ricordo sul pacchetto di sigarette già attualmente pesano per la bellezza del 75,2% sui 3,60 euro più o meno che costa il pacchetto in tabaccheria. Singolare, ma questa è la posizione del secolo XIX, io ve lo richiamo. E un'altra cosa oggi sul secolo XIX, coerente alla linea del giornale che è su posizioni di solito critiche nei confronti del governo in carica, è una pagina dedicata alla Tirrenia privatizzanda, parte l'assalto alla flotta di Stato, da settembre taglia la linea delle vacanze, ci sono poi tre articoli firmati dai colleghi Cafasso, Carozzi e Parodi a pagina 8 del secolo XIX. Tra le altre segnalazioni sul foglio, il foglio del lunedì oggi, come sapete, è dedicato a una collazione degli articoli scelti da Giorgio Dell'Arti, tra quelli comparsi sulla stampa nella settimana precedente. E tuttavia, come tutti i lunedì, c'è un commento in prima, taglio basso, firmato dall'Elefantino, cioè Don Giuliano Ferrara: i barconi respinti e gli umanitari che la fanno facile. È una risposta molto polemica a Monsignor Marchetto, il segretario del Pontificio Consiglio dei Migranti, la cui tesi è la fate facile, ma noi avevamo un'altra linea per aiutare i paesi come quelli africani da cui provengono i disperati che dobbiamo respingere alle frontiere se non sono in regola con i documenti per la regolarizzazione del loro accoglienza in Italia. La nostra linea era portarli la democrazia, ma ci avete detto di no, dice polemicamente a Monsignor Marchetto Giuliano Ferrara. Il Corriere d'Economia e Repubblica Affari e Finanza, vedremo tra poco come aprono, perché nel frattempo, come sempre sapete, dobbiamo passare alla linea per gli aggiornamenti sul traffico. In primo piano. Eccoci qui tornati, eravamo giunti a fare il punto dell'apertura dei temi trattati e approfonditi dai due supplementi economici dei due maggiori quotidiani italiani generalisti, cioè il Corriere Economia e Repubblica Affari e Finanza, che sono in edicola insieme al fascicolo del quotidiano generalista. Il lunedì, vediamo come apre il Corriere Economia, apre con il richiamo alle quattro pagine di apertura dello sfoglio interno, pagine 2, 3, 4 e 5. Fiat, quanto vale Marchionne, il titolo. Borsa e bilanci, conti dell'amministratore delegato e quelli della famiglia Agnelli in vista dell'appuntamento con Chrysler e Opel, confronto con BMW, Peugeot e Toyota. Vi suggerisco, se siete interessati a capire un pochino meglio le basi finanziarie e l'evoluzione dell'apporto finanziario dei soci di controllo di Fiat in questi anni, di leggere davvero con attenzione quello che Massimo Mucchetti ha scritto per quello che riguarda questo aspetto a pagina 3 del Corriere Economia, e c'è un'interpretazione di quanto, tra virgolette, è costato a IFIL e poi oggi Exor, cioè chi esercita il controllo in Fiat. La Fiat negli ultimi 20 anni è costato 4,7 miliardi di euro di valore bruciato, mentre poi a pagina 4-5 trovate specificamente spiegato bene il criterio attraverso il quale si giunge a questa individuazione di valore bruciato, e numerosi approfondimenti interessanti su il rendimento comparato per gli azionisti dei titoli Fiat rispetto a quelli dei titoli di Stato in questi anni. Tra gli altri temi trattati nel Corriere Economia di oggi, vi segnalo a pagina 9 un articolo del collega Stefano Righi, che approfondisce il faro acceso dall'antitrust sul patto sottoscritto tra Generale Assicurazione di Trieste e il Credit Agricole per l'11% circa del capitale di Intesa, una crescita dell'influenza di Generali, quindi di Mediobanca, di nuovo in Intesa, alla quale ha fatto reazione poi nei giorni successivi l'aumento della quota detenuta dai torinesi azionisti. Poi un secondo altro argomento, un articolo di Sergio Rizzo, pagina 10 del Corriere Economia, sul miliardo di euro che la Cassa Depositi e Prestiti aveva impegnato negli anni precedenti per mutui sottoscritti dagli enti locali e che però gli enti locali non hanno mai utilizzato. E a questo punto questo miliardo di euro, come si spiega nell'articolo di Sergio Rizzo, pagina 10, è stato devoluto dal governo per il finanziamento degli interventi straordinari dell'Abruzzo colpito dal sisma. Poi ancora un altro argomento, pagina 11, un articolo firmato da Jacopo Tondelli, sempre del Corriere Economia. Di Pietro studia da leghista verso le urne, l'ex PM e il Nord, e trovate un utile approfondimento firmato da un giovane bravissimo collega con il quale ho avuto anche l'onore di lavorare in due testate diverse. Di Pietro studia da leghista e corteggia i padroncini, l'ex PM in tour tra i piccoli imprenditori di Brescia e Bergamo, e non è che l'inizio, gli operai di Zipponi, sapete, è l'ex sindacalista Fiom, tendenza antagonista, che sta dando una solida mano perché la Lega si radichi negli stabilimenti della Lombardia e del Veneto. Poi vediamo ancora invece su Affari e Finanza di Repubblica, l'apertura delle ultime famiglie del capitalismo, dedicato a due articoli, uno di Giuseppe Turani a pagina 2 e uno di Sara Bennewitz a pagina 3, in cui si fa un punto critico su come il controllo familiare esercitato sulla stragrande maggioranza delle aziende italiane nei grandi gruppi oggi alle prese con i problemi delle eredità, e quindi si fa un punto non solo naturalmente sulla famiglia Berlusconi e sugli Agnelli più noti, ma su le maggiori altre dinastie italiane, da quella dei Benetton e del vecchio Bulgari. Questa è l'apertura di Affari e Finanza di Repubblica. Altri temi che vi segnalo: la triste fine delle libere lenzuolate, è l'editoriale di Massimo Giannini in prima, dedicato a la tra virgolette vergognosa fine che stanno facendo le lenzuolate, cioè le liberalizzazioni, secondo la dizione dell'allora ministro Bersani. E Massimo Giannini, con questo suo editoriale, critica molto duramente la maggioranza parlamentare attuale, che salva le lobby di assicuratori e farmacisti. Mentre invece se siete interessati ad approfondire l'aspetto internazionale della crisi, vi segnalo a pagina 7, sempre di Affari e Finanza, una lunga analisi di Marcello De Cecco, poca luce in fondo al tunnel. Devo dire che mi piace abbastanza questa impostazione di De Cecco, perché temo che ultimamente stia un po' prevalendo troppo l'ottimismo dopo troppo pessimismo. Vi segnalo ancora a questo proposito, naturalmente, ma l'avete già sentito se eravate in ascolto sui microfoni Radio 24, il tema di apertura del Sole 24 Ore del lunedì, dedicato a un'indagine comparata nei servizi pubblici nelle maggiori città italiane, servizi ai cittadini, al Trentino Alto Adige, la pagella migliore, e il titolo d'apertura del Sole di oggi, con i due pagine di diagrammi comparati, approfondimenti a pagina 2 e 3, servizi pubblici, qualità con il contagocce. Mentre invece il secondo fascicolo del Sole del lunedì, quello Norme e Tributi, è dedicato agli sconti IRAP, le incognite di Unico. I rimborsi dell'IRAP sono ancora fermi, mancano i modelli. Io vi farei anche un rapidissimo richiamo a due temi che sono oggi in apertura del Financial Times e Wall Street Journal. Il Financial Times dedica la sua apertura alle conseguenze che peseranno per 2 miliardi di pound di sterline per la decisione, o comunque l'intenzione, del governo britannico di procedere alla cancellazione dell'ulteriore tranche dell'Eurofighter, il jet di collaborazione europea nella cui costruzione è coinvolta anche la nostra Finmeccanica. Ma direi che se dovessi segnalarvi oggi un articolo tra tutti la Financial Times, vi segnalerei il commento che trovate all'interno di uno degli editorialisti più noti del Financial Times, che a me piace di più anche personalmente, quello Wolfgang Munchau, che a pagina 7 del quotidiano finanziario scrive un articolo, un editoriale, Like a fish, Europe is rotting from the head, cioè come il pesce l'Europa puzza dalla testa, che è molto critico sulla gestione della Commissione Barroso attualmente in uscita, ed è molto critico anche rispetto al mito di un'Europa che rappresenterebbe una risposta migliore come proprio modello di governance e di welfare ai problemi posti dalla crisi. Evidentemente Wolfgang Munchau la pensa molto diversamente da come Mario Monti ieri ha scritto nell'editoriale d'apertura del Corriere della Sera. Poi ancora una segnalazione invece dal Wall Street Journal, che dedica la sua apertura a una foto notizia, quella del Papa ovviamente. Vi segnalo il taglio basso di prima dedicato al deal Chrysler Fiat, che scrive Wall Street Journal, scuote il mondo dell'interpretazione giuridica delle bancarotte negli Stati Uniti. E a questo punto io restituisco la linea.